Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Riding the dawn. Buford Cannon was a notorious gunman whose short temper and a tendency to drool earned him the nickname Mad Dog. He was quick on the trigger and bragged that he had killed 12 men, not including Indians or Chinamen. We'll be right back. la seconda parte di Eclettica che stai ascoltando. La stai ascoltando sulle frequenze di Rock FM, a meno che tu non stia ascoltando il podcasting di questa trasmissione. Giulio Caperdoni, presente su queste frequenze tutti i giorni fra le 19 e le 20, con Eclettica, di cui esiste una playlist e viene aggiornata di settimana in settimana, quindi c'è sempre il dettaglio di quello che viene trasmesso. Come per esempio il gruppo italiano che ha aperto questa seconda parte, ovvero sia i Joy Cat, che ci siamo ascoltati con Shake Your Shape, o il gruppo norvegese che abbiamo appena salutato, ovvero sia gli Ungdomsskulen con Ordinary Son, o un interessante nuovissimo gruppo londinese, quello che sta per arrivare, Time, Space, Repeat. Vi invito a guardare proprio la playlist appena citata per vedere come questo nome è scritto. Sono usciti con un disco d'esordio, mettono a disposizione la loro musica, compresa questo nuovo singolo che sto per trasmettervi in download gratuito su internet, pratica sempre più diffusa, e io ve li faccio ascoltare, poi a voi la scelta se andarveli a cercare e quindi poi a scaricare. Time, Space, Repeat, questa è The End of the World. Siamo nel 1742. Ho vissuto a lungo. Questo non me lo può togliere nessuno. Tutti quelli che ho conosciuto sono morti. Alcuni li ho mandati io stesso all'altro mondo, se poi esiste. Ma perché dovrebbe? In ogni caso, spero con tutta l'anima che non esista, perché all'inferno ce li ritroverei tutti. Più il cieco, Israel Hands, Billy Bones, quell'idiota di Morgan che osò passarmi il bollo nero, e gli altri, Flint compreso, che Dio l'abbia in gloria, se un Dio esiste. Mi accoglierebbero a braccia aperte, con salamelecchi e inchini, sostenendo che è tornato tutto come ai vecchi tempi. Ma intanto il terrore irradierebbe dai loro volti, come un sole ardente sul mare in bonaccia. Terrore di cosa? Chiedo io. Certo, all'inferno non possono avere paura della morte, che ve ne pare. Questo era l'incipit della vera storia del pirata Long John Silver, di Bjorn Larsson. We'll be right back. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 6, volume numero 3, Indice, Klimek, Pa Shik Shik, Black Vatican, Bonnie Prince Billy, Nano, Kakukanoi, Joycat, Ungdomsskulen, Time Space Repeat, Uncle. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.